Stefano che li anticaga sempre addosso. Stefano che li anticaga a struzzo dappertutto. Danny Scandone è un pezzente morto di fame. Giuseppe Console è un inutile parassita. Giuseppe Console culattone fallito. Giuseppe Console sfigato pezzente. Giuseppe Console è un pezzente con il cazzo piccolo. Il cazzo di Giuseppe Console è piccolo. Stefano Scheriana è un grasso maiale cornuto e cagato che prende inculate. Stefano Scheriana si fa mettere cornuto di continuo. Stefano Scheriana caga nella vasca da bagno e si lava con la merda. Stefano Scheriana non si lava mai e puzza peggio di un maiale. Stefano Scheriana si caga addosso al gavioli. Stefano Scheriana si caga addosso al gavioli. Stefano Scheriana si caga addosso al gavioli. Stefano Scheriana è un cagazotto pidocchioso. Giuseppe Console è un nanetto castrato. Danny Scandone ruba mutolini. Stefano Scheriana si caga addosso. Stefano Scheriana ha il culo sfondato dai neri. Tutti i suoi bai sanno che Stefano Scheriana si caga addosso. Stefano Scheriana si caga addosso ai gavioli. Stefano Scheriana si è fatto inculare su eBay per cerchioni storti più di 1500 euro. Stefano Scheriana caga merda liquida a spruzzo sui muri di casa. Stefano Scheriana e Pietro Barini sono due pezzenti. Stefano Scheriana nano pericoloso. Stefano Scheriana si fa rubare in casa da primo PC e Scandone. La cantina di primo PC è piena di roba di Stefano Scheriana. Stefano Scheriana nel 2002 ha subito un furto di un chilo d'erba. Tutti ridono di Giuseppe Console che non ha mai visto una figa. Giuseppe Console vende il culo su eBay. Stefano Scheriana compra mutande già cagate su eBay. Giuseppe Console è un culattone schiavo che si sottomette e si fa pisciare e cagare addosso da tutti. Giuseppe Console è uno sfigato. Giuseppe Console non ha le palle. Giuseppe Console non ha le palle. Stefano Scheriana cagato e cornuto. Stefano Scheriana si caga, piscia e vomita addosso ai gavioli. Stefano Scheriana grasso maiale puzzolente e cagato. Stefano Scheriana si fa rubare attrezzi ed erba da Toloi. Stefano Scheriana prende inculate su internet e si fa rubare soldi da tutti i teloni. Talisa viene trombata da molti negri mentre Scheriana guarda cornuto con il cazzo piccolo. Scheriana grassone senza palle. Giuseppe Console non ha mai visto una figa. La madre di Giuseppe Console è grassa e stupida. Giuseppe Console succhia il cazzo a Dennis Candone. Dennis Candone ruba Mussolini con Andrea Primosici. Dennis Candone ha il cazzo piccolo e mocio. Tutte le ragazze di Rolano ridono del piccolo cazzetto di Giuseppe Console. Giuseppe Console vende eroina tagliata a Primosici e Candone. Giuseppe Console si inietta eroina tagliata sul cazzo. Andrea Primosici fa convini a Candone in cambio di pezzi di motorini rubati. Andrea Primosici e Candone vendono pezzi di motorini per farsi qualche vera di eroina. Candone brucia cocaina tagliata che compra da Condone. Andrea Primosici schifoso tossicodipendente. Giuseppe Console ha preso le patite facendo conchiglia ai negri. Molti negri spendano il culo di Giuseppe Console. La madre di Giuseppe Console succhia i cazzi piccoli di Primosici e Scandone. La madre di Scandone è una grassa puttana fallita. Giuseppe Console è un infame figlio di puttana. Giuseppe Console culattone. Dennis Candone ladro di motorini. La madre di Dennis Candone fa la puttana di Mila Domenici di Cavalmanda. Giuseppe Console vende il culo su internet. Giuseppe Console spazzatore. Molti negri inculano il padre di Giuseppe Console. Il cinghiale caga in testa a Giuseppe Console. Dennis Candone è un nano di merda. Giuseppe Console, Andrea Primosici e Dennis Candone sono inutili parassiti. Andrea Primosici e Dennis Candone diventano i motorini rubati nel bosco sopra Rolano. Andrea Primosici è una merda che cerca di vendere il giro con Giuseppe Console. Dennis Candone ha lavorato per 3 mesi da Avesta senza prendere neanche un soldo. Dennis Candone è un amicattato. Giuseppe Console non si lava mai e costa peggio di un maiale. Questo è un nano culattone. Giuseppe Console si infila oggetti nel culo. Andrea Primosici infila Scandone. Giuseppe Console non sa fare a botte. Giuseppe Console fa il pagliaccio su internet. Tutta Rolano ride di Giuseppe Console. Giuseppe Console quando andava al San Brillen veniva preso in giro da tutte le ragazze e da Alessandro Dainese. Giuseppe Console veniva preso in giro anche da tutte le ragazze dell'oratorio di Rolano. Giuseppe Console è ancora vergine a 22 anni. Giuseppe Console vergine di cazzo ma non di culo. Dennis Candone infame. Giuseppe Console fa schifo anche alla madre di Splinter. Giuseppe Console nano rotto in culo. Dennis Candone culattone rotto in culo. Dennis Candone ruba motorini con Andrea Primosici. Stefano Scheriano si caga addosso. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Scheriano. Dennis Candone vende droga in piazza Oberdam tutti i giorni. Stefano Scheriano ha il cazzo piccolo. Stefano Scheriano è un parassita. Giuseppe Console è più sfigato di Pinter. Dennis Candone Parassita. Dennis Candone Parassita. Dennis Candone Parassita. Sono un ladro e spacciatore. Sono un ladro e spacciatore. Marco Suman tossicodipendente parassita. Giuseppe Console al cazzo piccolo. Giuseppe Console al cazzo piccolo. Giuseppe Console al cazzo piccolo. Giuseppe Console ha preso la IDS ingoiando la sbora dei negri. Giuseppe Console parassita. Giuseppe Console parassita. Giuseppe Console parassita. Dennis Candone culattone con la IDS. Dennis Candone culattone con la IDS. Dennis Candone culattone con la IDS. Dennis Candone si inietta eroina sul cazzo. Giuseppe Console mangia la merda di tutti. Giuseppe Console all'AIDS. Giuseppe Console all'AIDS. Giuseppe Console all'AIDS. Giuseppe Console è castrato. Giuseppe Console è castrato. Giuseppe Console è castrato. Dennis Candone vende cocaina tagliata con lo zucchero. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Giuseppe Console ha il culo sfondato dai neri. Il culo di Giuseppe Console è sfondato dai neri. Il padre di Giuseppe Console fa convini ai neri. Tonui si fa inculare da Splinter. Splinter ha il cazzo piccolo. Dennis Candone castrato. Dennis Candone castrato. Dennis Candone castrato. La madre di Giuseppe Console è una nana puttana con la IDS. Stefano Scherian regala soldi ai peloni su internet. Stefano Scherian ha pagato 1000 euro per 4 cerchioni storti per la sua Lancia Delta rottame. Stefano Scherian ha speso 15.000 euro sulla sua Lancia Delta rottame che non ha mai usato. Stefano Scherian ha regalato 600 euro su internet per dei giubbotti che non sono mai arrivati. Stefano Scherian ha regalato altri 250 euro su internet per un albero sbielato. Stefano Scherian si fa inculare soldi da tutti. Tutti i peloni ridono di Stefano Scherian e dei soldi che gli hanno inculato. Stefano Scherian compra vestiti usati su internet che gli arrivano già cagati. Talisa si fa trombare alla cantinaccia mentre Scherian compra merda su internet. Anche su internet tutti sanno che Scheriano si caga addosso. Stefano Scherian ha comprato su internet inculate per una somma superiore a 6.000 euro. Stefanos Kelian continua a comprare su internet nonostante tutte le inculate già subite. Stefanos Kelian è un pagliaccio che si fa prendere in giro da Splinter e Toloi. Molti peloni vivono grazie alle inculate tirate a Stefanos Kelian. Primotici e Scandone rubano in casa di Kelian qualsiasi cosa che trovano. Kelian minimizza le inculate subite e dice che ha fatto buoni affari. Toloi e Splinter hanno rubato un chilo di erba e dei videogiochi in casa di Kelian. Stefano Scheriano gioca ai videogiochi mentre Talisa si fa trombare da chi capita in casa a rubare. Scheriano subisce furti e inculate su internet di continuo. Stefano Scheriano al Gavioli si mangia pasticche mentre la sua ragazza si fa trombare dagli slavi. Le pasticche che Stefano Scherian si mangia al Gavioli sono contro la Scagarella. Scherian minimizza le inculate subite e dice che ha fatto buoni affari. Anche al Gavioli tutti sanno che Stefano Scherian si caga addosso. Stefano Scherian si è cagato e vomitato addosso al Gavioli. Tutto il Gavioli ride di quel cornuto cagasotto di Stefano Scherian. Stefano Scherian dice di essere bravo a fare a botte. Stefano Scherian si è fatto bastonare da Zele. Stefano Scherian ha comprato 7 kg di puzza pagandoli 3.000 euro. Stefano Scherian si è fatto rubare un chilo di puzza e gli altri 6 li ha buttati nella spazzatura. Stefano Scherian compra solo fumo puzza. Talisa si fuma il fumo buono mentre Scherian si fuma la puzza. Stefano Scherian e Pietro Barini vanno in giro a sniffare zucchero convinti di sniffare cocaina. Stefano Scherian lecca il culo a Pietro Barini in cambio di qualche riga di cocaina tagliata. Pietro Barini ha speso 300.000 euro in cocaina ed eroina tagliata. La sorella di Pietro Barini è sempre in cerca di cazzo. La madre di Giuseppe Console all'AIDS. Giuseppe Console nano castrato. Giuseppe Console nano castrato. Pietro Barini tossicodipendente si fa inculare da 20 negri in cambio di qualche riga di coca buona. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Danny Scandone fa pompini in piazza Oberdan tutti i giorni. Danny Scandone fa pompini in piazza Oberdan tutti i giorni. Danny Scandone fa pompini in piazza Oberdan tutti i giorni. Giuseppe Console si fa inculare da Primotici e Scandone in cambio di pezzi di motorino rotti o macchina Scheriano. Giuseppe Console si fa inculare da Primotici e Scandone in cambio di pezzi di motorino rotti o macchina Scheriano. Giuseppe Console si succhia il piccolo cazzo di Scandone in cambio di eroina. Giuseppe Console si succhia il piccolo cazzo di Scandone in cambio di eroina. Giuseppe Console ha il cazzo molto piccolo e non sa fare a botte. Giuseppe Console ha il cazzo molto piccolo e non sa fare a botte. Giuseppe Console mangia la merda di tutta Royano. Giuseppe Console mangia la merda di tutta Royano. Giuseppe Console mangia la merda di tutta Royano. Stefano Scherian si caga addosso e porta il pannolino. Dalisa sopporta Stefano Scherian solo per abitare e fumare a gratis da lui. Stefano Scherian ha anche una tremenda puzza di piedi. Stefano Scherian è stato buttato fuori dal Gavioni perché si veste male e puzza di merda. Stefano Scherian puzza di merda da vomitare. Stefano Scherian ha comprato delle batterie fallate su internet. Stefano Scherian ha comprato un telefono che non è mai arrivato da 190 euro su internet. Stefano Scherian ha comprato un telefono che non è mai arrivato da 190 euro su internet. Stefano Scherian è un grasso maiale stupido e pezzolente. Stefano Scherian è un grasso maiale stupido e pezzolente. Stefano Scherian si fa cagare in bocca da Pietro Marini. Pietro Marini si tromba Talisa mentre Stefano Scherian prende inculate su internet. Giuseppe Console non distingue la figa dal buco del culo. Giuseppe Console non ha le palle. Giuseppe Console non ha le palle. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Splinter. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Splinter. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Splinter. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Splinter. Stefano Scherian, prenditi quella scimmia pelosa della tua ragazza e vai a fanculo. Stefano Scherian non capisce niente di motorini. Molti ragazzini rubano i pezzi di motorino da casa di Stefano Scherian. Splinter e Toloi hanno rubato l'erba che Scherian comprava da zia Carmen. Rubare a Scherian va di moda. Scherian non porta mai in giro la sua ragazza per paura che venga trombata da tutti mentre lui guarda cornuto con il cazzo piccolo. Tutta Trieste sa che Scherian si caga addosso. Saliva alla figa pelosa e puzzolente. Tutta la cantinaccia si trombava saliva mentre Scherian si infilava oggetti nel culo. Stefano Scherian acquista spazzatura su internet convinto di fare buoni affari. Stefano Scherian si pulisce il culo smerdato con gli asciugamani. Stefano Scherian si fa rubare in casa da Primotici e Scandone. Andrea Primotici e Dennis Scandone vanno a rubare in casa di Scherian anche in pieno giorno. Stefano Scherian fuma bombe di tabacco tutto il giorno mentre Talisa si fa trombare da chi capita. Talisa sta con Scherian solo per fumare a gratis. Stefanos querían tutta il cazzo a Pietro Barini in cambio di qualche bonga tabaccosa. Le amiche di Talita prendono in giro Stefanos per il tuo piccolo cazzo. La macchina di Stefanos è pidocchiosa. Intere sono indono di Stefanos Stefanos di tutta la roba che gli hanno dato. Stefanos Stefanos mangia la merda di Stefanos Stefanos. Dennis Candone e Andrea Primoti ci rubano in casa di Stefanos 2 o 3 volte a settimana. Stefanos Stefanos è stupido, grasso e puzzolente. Andrea Primoti ci ha rubato molti affetti in casa di Stefanos. Stefanos Stefanos lecca il culo cagato di saliva. Saliva si fa tombare da tutti mentre Stefanos Stefanos lavora con il tuo. Stefanos Stefanos viene preso in giro sul lavoro perché si caga addosso. Stefanos Stefanos spende tutti i soldi sulla sua lancia delta rottame. La lancia delta di Stefanos Stefanos è un rottame da pezzenti. Stefanos Stefanos ha subito più di 20 punti in casa. Primotici e Candone rubano pezzi di motorino a Stefanos Stefanos per poi buttarli nella spazzatura. Stefanos Stefanos e Pietro Barini sono 2 pagliacci che si fanno prendere in giro ogni volta che mettono piede fuori casa. Stefanos Stefanos e Pietro Barini sono 2 handicappati. Stefanos Stefanos si fa inculare da Pietro Barini. Pietro Barini ha il cazzo piccolo. La sorella di Pietro Barini è una puttana. Pietro Barini ha l'epatite. Stefanos Stefanos va su internet a prendere inculate da tutta Italia. Stefanos Stefanos cagato dalla testa ai piedi. Quando Stefanos Stefanos parla di motorini dice solamente cretinate. Stefanos Stefanos dice solamente cretinate ogni volta che apre bocca. Stefanos Stefanos si è fatto rubare in casa da Spintere Colombi. Vere con noi sono più cupi di Stefanos. Gli attrezzi di Stefanos vengono scambiati con qualche pera da Primotici e Candone. Stefanos si fa pere di cocaina tagliata con lo zucchero che compra da Pietro Barini. Pietro Barini è un parassita. Stefanos Stefanos ha il buco del culo molto largo. Il buco del culo di Stefanos Stefanos è stato sfondato dai neri. Stefanos Stefanos si è cagato addosso al Gavioni. Stefanos Stefanos si fa sbonare il culo dai neri mentre Talisa guarda. La sorella di Pietro Barini è una puttana. Giuseppe Console è un inutile parassita. Giuseppe console culattone fallito. Get right on that. Giuseppe console sfigato pezzente. Giuseppe console è un pezzente con il cazzo piccolo. Get right on that. Tutti vivono di Giuseppe console che non ha mai visto una fila. Stefano Schellian puzza di merda da vomitare. Get right on that. Stefano Schellian ha comprato delle batterie ballate su internet. La madre di Giuseppe console alla AIDS. Stefano Schellian si è cagato e vomitato addosso al Gavioni. Stefano Schellian ha speso 15.000 euro sulla sua lancia delta rottame che non ha mai usato. Giuseppe console prende calci nelle palle da tutti. Giuseppe console ha il cazzo più piccolo di Trieste. Stefano Schellian cagato dalla testa ai piedi. Andrea Pinotti ci ha dato molti attrezzi in casa di Schellian. Tutta Trieste sa che Schellian si caga addosso. Salisa ha la fila pelosa e puzzolente. Stefano Schellian acquista spazzatura su internet convinto di fare buoni affari. Stefano Schellian si pulisce il culo smerdato con gli asciugamani. Le amiche di Talisa prendono in giro Schellian per il suo piccolo cazzo. Tutta la cantinaccia si trovava Talisa mentre Schellian si infilava oggetti nel culo. Stefano Schellian fuma bombe di tabacco tutto il giorno mentre Talisa si fa trombare da chi capita. Talisa sta con Schellian solo per fumare a gratis. Stefano Schellian si fa rubare in casa da Primotici e Scandone. Stefano Schellian succhia il cazzo a Pietro Marini in cambio di qualche bomba tabaccosa. La macchina di Schellian è bigottosa. Andrea Primotici e Danny Scandone vanno al bar in casa di Schellian di Gengiano Gesù. Il giorno con un idolo di Stefano Schellian e di tutta la roba che gli hanno rubato. Danny Scandone e Andrea Primotici rubano in casa di Schellian 2 o 3 volte a settimana. Stefano Schellian è stupido, grasso e puzzolente. La lancia delta di Stefano Schellian è un rottame da pezzenti. Stefano Schellian mangia la merda di Silvere Tolone. Stefano Schellian cagato dalla testa ai piedi. Stefano Schellian ha subito più di 20 furti in casa. Talisa si fa trombare da tutti mentre Stefano Schellian lavora cornuto. Stefano Schellian viene preso in giro sul lavoro perché si caga addosso. Stefano Schellian si fa inculare da Pietro Barini. Pietro Barini ha l'epatite. Stefano Schellian spende tutti i soldi sulla sua lancia delta rottame. Primotici e Scandone rubano pezzi di motorino a Stefano Schellian per poi buttarli nella spazzatura. Stefano Schellian e Pietro Barini sono due pagliacci che si fanno prendere in giro ogni volta che mettono piede fuori casa. Stefano Schellian dice solamente cretinate ogni volta che apre bocca. Stefano Schelian va su internet a prendere inculate da tutta Italia. Giuseppe Console ha il cazzo più piccolo di Trieste. In Veneto noi sono più furbi di Schelian. Quando Stefano Schelian parla di motorini dice solamente cretinate. Stefano Schelian si è fatto rubare in casa da Spintereto noi. Gli attrezzi di Schelian vengono scambiati con qualche pera da Primodici e Scandone. Schelian si fa pere di cocaina tagliata con lo zucchero che compra da Pietro Barini. Pietro Barini è un parassita. Il buco del culo di Stefano Schelian è stato sfondato dai neri. Stefano Schelian si è cagato addosso al Gavioli. La puzza di merda di Stefano Schelian fa da vomitare. Danny Scandone ruba motorini vecchi e ingrippati. Giuseppe Console ingoia la sbora di Primodici e Scandone. Primodici sottomette Giuseppe Console e gli fa mangiare la sua merda. A Giuseppe Console piace mangiare la merda di Primodici. Primodici ha il cazzo molto piccolo. Danny Scandone lecca il culo smerdato di Spintereto noi. Danny Scandone si fa sborare in bocca dai negri. Spintereto noi si fanno succhiare il cazzo da Giuseppe Console e gli fanno bere tutta la sbora. Giuseppe Console beve la sbora di tutti. Giuseppe Console prende calci nelle palle da tutti. Giuseppe Console lecca le siringhe che trova a casa di Splinter. Andrea Primodici e Danny Scandone hanno rubato delle mutande cagate di Schelian. La casa di Danny Scandone è piena di siringhe e di pezzi di motorini rubati. Scandone si infila siringhe e pezzi di motorini rubati nel culo per godere. Giuseppe Console non ha mai avuto una ragazza perché è un nano impotente. Anche le puttane hanno mandato via Giuseppe Console perché puzza e ha il cazzo piccolo. La madre di Giuseppe Console si infila siringhe nella figa. La figa della madre di Giuseppe Console è stata sfondata dai negri. Giuseppe Console è un nano rotto in culo dai negri. Giuseppe Console fa pompini agli handicappati. Giuseppe Console si caga addosso. Danny Scandone vende il culo su internet. Il buco del culo di Danny Scandone è pieno di sbora. Giuseppe Console lecca il buco del culo di Danny Scandone. Giuseppe Console ha l'epatite e l'AIDS. Andrea Primodici ruba motorini per infilare i pezzi nel culo di Giuseppe Console. Giuseppe Console ha il culo pieno di sbora dei negri e pezzi di motorino rubato. Tutte le ragazze ridono di Giuseppe Console e del suo culo sfondato dai negri. A Andrea Primocchi ci lecca la figa della madre di Splinter. Splinter sbora in bocca a Giuseppe Console. Dennis Candone si fa pere di eroina con siringhe rubate alla madre di Splinter. La madre di Splinter rifila siringhe usate nel culo di Giuseppe Console. Dennis Candone ha il cazzo molto piccolo. Dennis Candone fa convini a Splinter. Giuseppe Console mangia la merda di Toloi. Stefano Scherian ha speso 15.000 euro sulla sua Lancia Delta rottame che non ha mai usato. Giuseppe Console lecca il culo cagato di Scandone. Giuseppe Console si caga e piscia addosso. Giuseppe Console succhia cazzi. Giuseppe Console succhia cazzi. Giuseppe Console succhia cazzi. Giuseppe Console succhia cazzi. Dennis Candone ladro e spacciatore. Dennis Candone ladro e spacciatore. Dennis Candone ladro e spacciatore. Dennis Candone ladro e spacciatore. Andrea Primocchi handicappato. Andrea Primocchi handicappato. Andrea Primocchi handicappato. Andrea Primocchi handicappato. Giuseppe Console culattone. Giuseppe Console culattone. Giuseppe Console culattone. Giuseppe Console culattone. Giuseppe Console culattone. Dennis Candone culattone. Dennis Candone culattone. Dennis Candone culattone. Dennis Candone culattone. Dennis Candone culattone. Dennis Candone culattone. Andrea Primocchi culattone. Andrea Primocchi culattone. Andrea Primocchi culattone. Andrea Primocchi culattone. Stefano Scheriano ha il cazzo piccolo. Stefano Scheriano è un parassita. Giuseppe Console è più figato di Splinter. Dennis Candone parassita. Dennis Candone parassita. Dennis Candone parassita. Sono il ladro e spacciatore. Sono il ladro e spacciatore. Marco Suman tossicodipendente parassita. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha preso la AIDS ingoiando la sbora dei negri. Giuseppe Console parassita. Giuseppe Console parassita. Giuseppe Console parassita. Dennis Candone culattone con la AIDS. Dennis Candone culattone con la AIDS. Dennis Candone culattone con la AIDS. Dennis Candone si mette eroina sul cazzo. Giuseppe Console mangia la merda di tutti. Giuseppe Console alla AIDS. Giuseppe Console alla AIDS. Giuseppe Console alla AIDS. Giuseppe Console è castrato. Giuseppe Console è castrato. Giuseppe Console è castrato. Dennis Candone vende cocaina tagliata con lo zucchero. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Giuseppe Console ha il culo sfondato dai neri. Il culo di Giuseppe Console è sfondato dai neri. Il padre di Giuseppe Console fa conviglia ai neri. O non si fa inculare da Finter. Finter ha il cazzo piccolo. Sei scandone castrato. Sei scandone castrato. Sei scandone castrato. La madre di Giuseppe Console è una nana puttana con la AIDS. Stefano Scherian regala soldi ai peroni su internet. Stefano Scherian ha pagato 1000 euro per 4 cerchioni scotti per la sua lancia Delta Rossano. Stefano Scherian si è cagato e vomitato addosso agli avioni. Stefano Scherian ha regalato 600 euro su internet per dei giubbotti che non sono mai arrivati. Stefano Scherian ha regalato altri 250 euro su internet per un albero svielato. Stefano Scherian si fa inculare soldi da tutti. Tutti i peroni ridono di Stefano Scherian e dei soldi che gli hanno inculato. Stefano Scherian compra vestiti usati su internet che gli arrivano già cagati. Dalisa si fa trombare alla cantinaccia mentre Scherian compra merda su internet. Anche su internet tutti sanno che Scheriano si caga addosso. Stefano Scherian ha comprato su internet inculate per una somma superiore a 6.000 euro. Stefano Scherian continua a comprare su internet nonostante tutte le inculate già subite. Stefano Scherian è un pagliaccio che si fa prendere in giro da Spinter e Toloi. Molti peroni vivono grazie alle inculate tirate a Stefano Scherian. Primotici e Scandone rubano in casa di Scherian qualsiasi cosa che trovano. Scherian minimizza le inculate subite e dice che ha fatto buoni affari. Toloi e Spinter hanno rubato un chilo di erba e dei videogiochi in casa di Scherian. Stefano Scherian gioca ai videogiochi mentre Dalisa si fa trombare da chi capita in casa a rubare. Scherian subisce furti e inculate su internet di continuo. Stefano Scherian al gavioni si mangia pasticche mentre la sua ragazza si fa trombare dagli slavi. Ladies and gentlemen, we've got a real problem. le pasticche che Stefano Schelian si mangia ai gavioli sono contro la scagarella. Anche ai gavioli tutti sanno che Stefano Schelian si caga addosso. La madre di Giuseppe Console all'AIDS. Tutto i gavioni vive di quel cornuto cagazotto di Stefano Schelian. Stefano Schelian dice di essere bravo a fare a botte. Stefano Schelian si è fatto bastonare da Zele. Stefano Schelian si caga sempre addosso. Stefano Schelian ha comprato 7 kg di puzza pagandoli 3.000 euro. Stefano Schelian si è fatto rubare 1 chilo di puzza e gli altri 6 li ha buttati nella spazzatura. Stefano Schelian compra solo fumo puzza. Stefano Schelian puzza di merda da vomitare. Stefano Schelian caga a spruzzo dappertutto. Talisa si fuma il fumo buono mentre Schelian si fuma la puzza. Stefano Schelian e Pietro Barini vanno in giro a sniffare zucchero convinti di sniffare cocaina. Stefano Schelian lecca il culo a Pietro Barini in cambio di qualche riga di cocaina tagliata. Pietro Barini ha speso 300.000 euro in cocaina ed eroina tagliata. La sorella di Pietro Barini è sempre in cerca di cazzo. Stefano Schelian ha comprato delle batterie fallate su internet. Giuseppe Console nano castrato. Giuseppe Console nano castrato. Pietro Barini tossicodipendente si fa inculare da 20 negri in cambio di qualche riga di coca buona. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Tutti dicono di Giuseppe Console che non ha mai visto una figa. Dennis Candone fa pompini in piazza Oberdan tutti i giorni. Dennis Candone fa pompini in piazza Oberdan tutti i giorni. Dennis Candone fa pompini in piazza Oberdan tutti i giorni. Tutti ridono di Giuseppe Console che non ha mai visto una figa. Giuseppe Console si fa inculare da primotici e Candone in cambio di vecchi di motorino rotti e matti da Scheriano. Giuseppe Console si fa inculare da Primotici e Scandone in cambio di pezzi di motorino rotti rubati da Scheriano. Giuseppe Console si succhia il piccolo cazzo di Scandone in cambio di eroina. Giuseppe Console si succhia il piccolo cazzo di Scandone in cambio di eroina. Giuseppe Console ha il cazzo molto piccolo e non sa fare a botte. Giuseppe Console ha il cazzo molto piccolo e non sa fare a botte. Giuseppe Console mangia la merda di tutta Roiano. Giuseppe Console mangia la merda di tutta Roiano. Giuseppe Console mangia la merda di tutta Roiano. Stefano Schelian si caga addosso e porta il pannolino. Santa Lisa sopporta Stefano Scherian solo per abitare e fumare a gratis a lui. Stefano Scherian ha anche una tremenda puzza di piedi. Giuseppe Console è uno sfigato. Stefano Scherian è stato buttato fuori dal Gavioli perché si veste male e puzza di merda. Stefano Scherian ha comprato delle batterie fallate su internet. Stefano Scherian ha comprato un telefono che non è mai arrivato da 190 euro su internet. Stefano Scherian ha comprato un telefono che non è mai arrivato da 190 euro su internet. Stefano Scherian è un grasso maiale stupido e puzzolente. Stefano Scherian è un grasso maiale stupido e puzzolente. Stefano Scherian si fa cagare in bocca da Pietro Marini. Pietro Marini si tromba a Talisa mentre Stefano Scherian prende inculate su internet. Giuseppe Console non distingue la figa dal buco del culo. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Pinter. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Pinter. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Pinter. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Pinter. Stefano Scherian si caga sempre addosso. Stefano Scherian caga a cruzzo dappertutto. Dennis Scandone è un pezzente morto di fame. Giuseppe Console è un inutile parassita. Giuseppe Console culattone fallito. Stefano Scherian gioca ai videogiochi mentre Talisa si fa trombare da chi capita in casa a rubare. Giuseppe Console è sfigato pezzente. Pinter dora in bocca a Giuseppe Console. Giuseppe Console è un pezzente con il cazzo piccolo. Il cazzo di Giuseppe Console è piccolo. Stefano Scherian è un grasso maiale cornuto e cagato che prende inculate. Stefano Scherian si fa mettere cornuto di continuo. Stefano Scherian caga nella vasca da bagno e si lava con la merda. Giuseppe Console lecca il culo cagato di Scandone. Stefano Scherian non si lava mai e puzza peggio di un maiale. Stefano Scherian si caga addosso al Gavioli. Stefano Scherian si caga addosso al Gavioli. Stefano Scherian si caga addosso al Gavioli. Stefano Scherian è un cagazotto pidocchioso. Giuseppe Console è un nanetto castrato. Dennis Scandone ruba motorini. Tutta la cantinaccia si trombava Talisa mentre Scheriano si infilava oggetti nel culo. Stefanus Perian ti caga addosso. Stefanus Perian hai più sfondato dai neri. Tutti i suoi vai sanno che Stefanus Perian ti caga addosso. Stefanus Perian ti caga addosso ai gavioni. Stefanus Perian si è fatto un culai su eBay per cerchioni storti più di 1500 euro. Stefanus Perian si pulisce il culo smerdato con gli asciugamani. Il culo di Giuseppe Console è sfondato dai negri. Stefanus Perian caga merda liquida a struzzo sui muri di casa. Stefanus Perian si fa sgolare in culo dai negri mentre Talisa guarda. Dennis Scandone ha il cazzo molto piccolo. Stefanus Perian e Pietro Marini sono due pezzenti. Stefanus Perian nano pericoloso. Stefanus Perian si fa rubare in casa da Bimbotici e Scandone. Stefanus Perian lecca il culo cagato di Talisa. La cantina di Bimbotici è piena di roba di Stefanus Perian. Stefanus Perian compra mutande già cagate su eBay. Tutti ridono di Giuseppe Console che non ha mai visto una figa. Giuseppe Console vende il culo su eBay. Giuseppe Console è un culattone schiavo che si sottomette e si fa pisciare e cagare addosso da tutti. Stefanus Perian cagato e cornuto. Dennis Scandone è un handicappato. Stefanus Perian si caga, piscia e vomita addosso ai gavioni. Stefanus Perian e Pietro Barini sono due handicappati. Pietro Barini ha il cazzo piccolo. Stefanus Perian nel 2002 ha subito un furto di un chilo d'erba. Stefanus Perian ha il buco del culo molto largo. La sorella di Pietro Barini è una puttana. Giuseppe Console è un inutile parassita. Giuseppe Console è sfigato pezzente. Il cazzo di Giuseppe Console è piccolo. Stefanus Perian si fa mettere cornuto di continuo. Stefanus Perian caga nella vacca da bagno e si lava con la merda. Stefanus Perian non si lava mai e puzza peggio di un maiale. Stefanus Perian si caga addosso ai gavioli. Stefanus Perian si caga addosso ai gavioli. Stefanus Perian si caga addosso ai gavioli. Stefanus Perian è un cagasotto pidocchioso. Giuseppe Console è un nanetto castrato. Dennis Scandone ruba motorini. Stefanus Perian si caga addosso. Stefanus Perian ha il culo sfondato dai neri. Tutti i suoi bai sanno che Stefanus Perian si caga addosso. Stefanus Perian si caga addosso ai gavioni. Stefanus Perian caga merda liquida a spruzzo sui muri di casa. We'll be right back. Stefano Schellian e Pietro Barini sono due pezzenti. Stefano Schellian nano pericoloso. Stefano Schellian si fa rubare in casa da Grimovici e Scandone. Stefano Schellian è un grasso maiale cornuto e cagato che prende inculate. La cantina di Grimovici è piena di roba di Stefano Schellian. Giuseppe Console è un pezzente con il cazzo piccolo. Giuseppe Console vende il culo su eBay. Stefano Schellian compra mutande già cagate su eBay. Giuseppe Console è un culattone schiavo che si sottomette e si fa pisciare e cagare addosso da tutti. Giuseppe Console è uno sfigato. Giuseppe Console non ha le palle. Giuseppe Console non ha le palle. Giuseppe Console culattone fallito. Stefano Schellian cagato e cornuto. Stefano Schellian si caga, piscia e vomita addosso al Gavioli. Stefano Schellian grasso maiale puzzolente e cagato. Stefano Schellian si fa rubare attrezzi ed erba da Toloni. Stefano Schellian prende inculate su internet e si fa rubare soldi da tutti i peroni. Salisa viene trombata da molti neri mentre Schellian guarda cornuto con un cazzo piccolo. Jenny Scandone è un serpente morto di fame. Schellian grassone senza palo. Stefano Schellian si caga addosso e porta il pannolino. Giuseppe Console non ha mai visto una figa. La madre di Giuseppe Console è grassa e stupida. Giuseppe Console succhia il cazzo a Remy Scandone. Remy Scandone ruba motorini con Andrea Primovici. Remy Scandone ha il cazzo piccolo e moscio. Tutte le ragazze di Roiano ridono del piccolo cazzetto di Giuseppe Console. Giuseppe Console vende eroina tagliata a Primovici e Scandone. Giuseppe Console si inietta eroina tagliata sul cazzo. Andrea Primovici fa confini a Scandone in cambio di pezzi di motorini rubati. Andrea Primovici e Scandone vendono pezzi di motorini per farsi qualche pera di eroina. Scandone sniffa cocaina tagliata che compra da Polonia. Andrea Primovici schifoso tossicodipendente. Giuseppe Console ha preso le patite facendo compigni ai negri. Molti negri sfondano il culo di Giuseppe Console. La madre di Giuseppe Console succhia i cazzi piccoli di Primovici e Scandone. La madre di Scandone è una grassa puttana fallita. Giuseppe Console è un infame figlio di puttana. Giuseppe Console culattone. Remy Scandone ladro di motorini. Stefano Schellian e Pietro Barini vanno in giro a sniffare zucchero convinti di sniffare cocaina. La madre di Remy Scandone fa la puttana in via Domus Civita a Valmanga. Giuseppe Console vende il culo su internet. Giuseppe Console spacciatore. Molti negri inculano il padre di Giuseppe Console. Il cinghiale caga in testa a Giuseppe Console. Dennis Candomir è un nano di merda. Giuseppe Console, Andrea Primotici e Dennis Candone sono inutili parassiti. Andrea Primotici e Dennis Candone smontano i motorini rubati nel bosco sopra Roiano. Andrea Primotici ruba merda che cerca di vendere in giro con Giuseppe Console. Dennis Candone ha lavorato per 3 mesi da Brescia senza prendere neanche un soldo. Giuseppe Console non si lava mai e puzza peggio di un maiale. Talisa si fa trombare alla cantinaccia mentre Skellian compra merda su internet. Questo è il nano culattone. Giuseppe Console si infila oggetti nel culo. Andrea Primotici in culo a Candone. Giuseppe Console non sa fare a botte. Giuseppe Console fa il pagliaccio su internet. Tutta Roiano ride di Giuseppe Console. Pietro Barini, tossicodipendente, si fa inculare da 20 negri in cambio di qualche riga di coca buona. Giuseppe Console quando andava al Sandrinelli veniva preso in giro da tutte le ragazze e da Alessandro Dainese. Giuseppe Console veniva preso in giro anche da tutte le ragazze dell'oratorio di Roiano. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei neri per essere inculato. Giuseppe Console è ancora vergine a 22 anni. Giuseppe Console è vergine di cazzo ma non di culo. La madre di Giuseppe Console ha l'AIDS. Dennis Candone infame. Giuseppe Console fa schifo anche alla madre di Splinter. Giuseppe Console nano rotto in culo. Dennis Candone culattone rotto in culo. Dennis Candone ruba motorini con Andrea Primotici. Stefano Scheriano si caga addosso. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Scheriano. Dennis Candone vende droga in piazza Oberdam tutti i giorni. Stefano Scheriano ha il cazzo piccolo. Stefano Scheriano è un parassita. Giuseppe Console è più sfigato di Splinter. Dennis Candone parassita. Dennis Candone parassita. Dennis Candone parassita. Tolui ladro e spacciatore. Tolui ladro e spacciatore. Marco Suman tossicodipendente parassita. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha preso l'AIDS ingoiando la sgora dei negri. Giuseppe Console parassita. Giuseppe Console parassita. Giuseppe Console parassita. Dennis Candone culattone con l'AIDS. Dennis Candone culattone con l'AIDS. Dennis Candone culattone con l'AIDS. Giuseppe Console mangia la merda di tutti. Giuseppe Console ha l'AIDS. Giuseppe Console ha l'AIDS. Giuseppe Console ha l'AIDS. Giuseppe Console è castrato. Giuseppe Consoli è castrato. Giuseppe Consoli è castrato. Prendi scandone e vende cocaina tagliata con lo zucchero. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Prendi scandone e si inietta eroina sul cazzo. Tu non ci fai inculare da spinte. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Spintera il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha il culo sfondato dai neri. Stefano Scherian ha pagato 1000 euro per 4 cerchioni storti per la sua Lancia Delta rottame. Il culo di Giuseppe Console è sfondato dai negri. Stefano Scherian regala soldi ai teloni su internet. Il padre di Giuseppe Console fa continui ai negri. Danny Scandone cazzato. Danny Scandone cazzato. Danny Scandone cazzato. Stefano Scherian ha speso 15.000 euro sulla sua Lancia Delta rottame che non ha mai usato. La madre di Giuseppe Console è una nana puttana con l'AIDS. Stefano Scherian ha regalato altri 250 euro su internet per un albero di gelato. Stefano Scherian ha regalato 600 euro su internet per dei giubbotti che non sono mai arrivati. Stefano Scherian si fa inculare soldi da tutti. I peroni ridono di Stefano Scherian e dei soldi che gli hanno inculato. Stefano Scherian compra vestiti usati su internet che gli arrivano già cagati. Anche su internet tutti sanno che Scherian si caga addosso. Stefano Scherian ha comprato su internet inculate per una somma superiore a 6.000 euro. Stefano Scherian continua a comprare su internet nonostante tutte le inculate già subite. Stefano Scherian è un pagliaccio che si fa prendere in giro da spintere con lui. Molti peroni vivono grazie alle inculate tirate a Stefano Scherian. Primotici e Scandone rubano in casa di Scherian qualsiasi cosa che trovano. Colui e Spintera hanno rubato un chilo di erba e dei videogiochi in casa di Scherian. Scherian minimizza le inculate subite e dice che ha fatto buoni affari. Stefano Scheriano gioca ai videogiochi mentre Talisa si fa trombare da chi capita in casa a rubare. Scheriano subisce furti e inculate su internet di continuo. Stefano Scheriano al Gavioli si mangia pasticche mentre la sua ragazza si fa trombare dagli slavi. Le pasticche che Stefano Scherian si mangia al Gavioli sono contro la scagarella. Anche al Gavioli tutti sanno che Stefano Scherian si caga addosso. Stefanos Kellyan si è cagato e vomitato addosso al Gavioni. Tutto i Gavioni ride di quel cornuto cagasotto di Stefanos Kellyan. Stefanos Kellyan dice di essere bravo a fare a botte. Stefanos Kellyan si è fatto bastonare da Zele. Stefanos Kellyan ha comprato 7 fili di putta pagandoli 3.000 euro. Stefanos Kellyan si è fatto levare 1 chilo di putta e gli altri 6 li ha buttati nella spazzatura. Stefanos Kellyan compra solo 1 putta. Dalisa si fuma il fumo buono mentre Kellyan si fuma la putta. Stefanos Kellyan lecca il culo a Pietro Marini in cambio di qualche riga di cocaina tagliata. Pietro Marini ha speso 300.000 euro in cocaina ed eroina tagliata. La sorella di Pietro Marini è sempre in cerca di cazzo. Giuseppe Console nano castrato. Giuseppe Console nano castrato. Dennis Scandone fa bombini in piazza Oberdam tutti i giorni. Dennis Scandone fa bombini in piazza Oberdam tutti i giorni. Dennis Scandone fa bombini in piazza Oberdam tutti i giorni. Giuseppe Console si fa inculare da Primovici e Scandone in cambio di pezzi di motorino lo più bacio da Kellyan. Giuseppe Console si fa inculare da Primovici e Scandone in cambio di pezzi di motorino lo più bacio da Kellyan. Giuseppe Console si succhia il piccolo cazzo di Scandone in cambio di eroina. Giuseppe Console si succhia il piccolo cazzo di Scandone in cambio di eroina. Giuseppe Console ha il cazzo molto piccolo e non sa fare a botte. Giuseppe Console ha il cazzo molto piccolo e non sa fare a botte. Giuseppe Console mangia la merda di tutta Royano. Giuseppe Console mangia la merda di tutta Royano. Giuseppe Console mangia la merda di tutta Royano. Dalisa sopporta Stefanos Kellyan solo per abitare e fumare a gratis da lui. Stefanos Kellyan ha anche una tremenda puzza di piedi. Stefanos Kellyan è stato buttato fuori dal Gavioni perché si veste male e puzza di merda. Stefanos Kellyan puzza di merda da vomitare. Stefanos Kellyan ha comprato delle batterie fallate su internet. Stefanos Kellyan ha comprato un telefono che non è mai arrivato da 190 euro su internet. Stefanos Kellyan ha comprato un telefono che non è mai arrivato da 190 euro su internet. Stefanos Kellyan è un grasso maiale stupido e puzzolente. Stefanos Kellyan è un grasso maiale stupido e puzzolente. Stefanos Kellyan nel 2002 ha subito un furto di 1 chilo d'erba. Stefanos Kellyan si fa cagare in bocca da Pietro Marini. Pietro Marini si tromba a Dalisa mentre Stefanos Kellyan prende inculate su internet. Giuseppe Console non distingue la figa dal buco del culo. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. Giuseppe Console spia quella grassa puttana di sua madre per vederle la figa. sette conto le fila che la ragazza puttana di tua madre del vedere la fila. Stefano Stelian si è fatto un live sui bei per cessioni sotto più di 1500 euro. Sette conto le lecca il duro svendato di finte. Sette conto le lecca il duro svendato di finte. Sette conto le lecca il duro svendato di finte. Sette conto le lecca il duro svendato di finte. Stefano Sterian, prenditi quella scimmia pelosa della tua ragazza e vai a fanculo. Stefano Sterian non capisce niente di motorini. Molti ragazzini rubano i pezzi di motorino da casa di Stefano Sterian. Spintere con lui hanno rubato l'erba che Sterian comprava da zia Carmen. Rubare a Sterian va di moda. Giuseppe Console non ha le palle. Giuseppe Console non ha le palle. Sterian non porta mai in giro la sua ragazza per paura che venga trombata da tutti mentre lui guarda cornuto con il cazzo piccolo. Andrea Primotti ci ha rubato molti attrezzi in casa di Sterian. Tutta Trieste sa che Sterian si caga addosso. Saliva alla figa pelosa e puzzolente. Stefano Sterian acquista spazzatura su internet convinto di fare buoni affari. Le amiche di Talisa prendono in giro Sterian per il suo piccolo cazzo. Stefano Sterian fuma bombe di tabacco tutto il giorno mentre Talisa si fa trombare da chi capita. Talisa sta con Sterian solo per fumare a gratis. Stefano Sterian si fa rubare in casa da Primovici e Scandone. Stefano Sterian succhia il cazzo a Pietro Barini in cambio di qualche bonga tabaccosa. La macchina di Sterian è bigottiosa. Andrea Primovici e Benny Scandone vanno al bar in casa di Sterian anche in pieno giorno. Con un idolo di Stefano Sterian di tutta la roba che gli hanno rubato. Benny Scandone e Andrea Primotti si rubano in casa di Sterian 2 o 3 volte a settimana. Stefano Sterian è stupido, grasso e puzzolente. La lancia delta di Stefano Sterian è il rottame da serpenti. Stefano Sterian mangia la merda di Spintere con lui. Stefano Sterian cagato dalla testa ai piedi. Stefano Sterian ha subito più di 20 furti in casa. Talisa si fa trombare da tutti mentre Stefano Sterian lavora con Rupo. Stefano Sterian viene preso in giro sul lavoro perché si caga addosso. Stefano Sterian si fa inculare da Pietro Barini. Pietro Barini ha le patite. Stefano Sterian spende tutti i soldi sulla sua lancia delta rottame. Primotici e Scandone rubano pezzi di motorino a Stefano Sterian per poi buttarli nella spazzatura. Stefano Sterian e Pietro Barini sono due pagliacci che si fanno prendere in giro ogni volta che mettono piede fuori casa. Stefano Sterian dice solamente cretinate ogni volta che apre bocca. Stefano Sterian va su internet a prendere inculate da tutta Italia. Giuseppe Console ha il cazzo più piccolo di Trieste.

Penny Scandone fa pompigna Splinter. Giuseppe Fonsole mangia la merda di Toloi. Stefano Scherian ha speso 15.000 euro sulla sua Lancia Delta rottame che non ha mai usato. Giuseppe Fonsole si caga e piscia addosso. Giuseppe Fonsole succhia cazzi. Giuseppe Fonsole succhia cazzi. Giuseppe Fonsole succhia cazzi. Giuseppe Fonsole succhia cazzi. Dennis Scandone ladro e spacciatore. Dennis Scandone ladro e spacciatore. Dennis Scandone ladro e spacciatore. Dennis Scandone ladro e spacciatore. Andrea Primovic handicappato. Andrea Primovic handicappato. Andrea Primovic handicappato. Andrea Primovic handicappato. Giuseppe Console culattone. Giuseppe Console culattone. Giuseppe Console culattone. Giuseppe Console culattone. Giuseppe Console culattone. Dennis Scandone culattone. Dennis Scandone culattone. Dennis Scandone culattone. Dennis Scandone culattone. Dennis Scandone culattone. Dennis Scandone culattone. Andrea Primovic culattone. Andrea Primovic culattone. Andrea Primovic culattone. Andrea Primovic culattone. Stefano Scheriano ha il cazzo piccolo. Stefano Scheriano è un parassita. Giuseppe Console è più figato di Splinter. Dennis Scandone parassita. Dennis Scandone parassita. Dennis Scandone parassita. Toloi ladro e spacciatore. Toloi ladro e spacciatore. Marco Suman tossicodipendente parassita. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha preso la AIDS ingoiando la sbora dei negri. Giuseppe Console parassita. Giuseppe Console parassita. Giuseppe Console parassita. Dennis Scandone culattone con la AIDS. Dennis Scandone culattone con la AIDS. Dennis Scandone culattone con la AIDS. Dennis Scandone si inietta eroina sul cazzo. Giuseppe Console mangia la merda di tutti. Giuseppe Console ha la AIDS. Giuseppe Console ha la AIDS. Giuseppe Console ha la AIDS. Giuseppe Console è castrato. Giuseppe Console è castrato. Giuseppe Console è castrato. Dennis Scandone vende cocaina tagliata con lo zucchero. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Giuseppe Console ha il culo sfondato dai neri. Il padre di Giuseppe Console fa pompini ai neri. Toloi si fa inculare da Splinter. Splinter ha il cazzo piccolo. Fenix Candone Castrato. Fenix Candone Castrato. Fenix Candone Castrato. La madre di Giuseppe Console è una nana puttana con la AIDS. Stefano Schellian regala soldi ai peroni su internet. Stefano Schellian ha pagato 1000 euro per 4 cerchioni sporchi per la sua lancia Delta Rottame. Stefano Schellian si è cagato e vomitato addosso ai gavioli. Stefano Schellian ha regalato 600 euro su internet per dei giubbotti che non sono mai arrivati. Stefano Schellian ha regalato altri 250 euro su internet per un albero sbiegato. Stefano Schellian si fa inculare soldi da tutti. Tutti i peroni ridono di Stefano Schellian e dei soldi che gli hanno inculato. Stefano Schellian compra vestiti usati su internet che gli arrivano già cagati. Dalisa si fa trombare alla cantinaccia mentre Schellian compra merda su internet. Anche su internet tutti sanno che Schellian si caga addosso. Stefano Schellian ha comprato su internet inculate per una somma superiore a 6.000 euro. Stefano Schellian continua a comprare su internet nonostante tutte le inculate già subite. Stefano Schellian è un pagliaccio che si fa prendere in giro da Splinter e Toloi. Molti peroni vivono grazie alle inculate tirate a Stefano Schellian. Primotici e Scandone rubano in casa di Schellian qualsiasi cosa che trovano. Schellian minimizza le inculate subite e dice che ha fatto buoni affari. Toloi e Splinter hanno rubato un chilo di erba e dei videogiochi in casa di Schellian. Schellian subisce tutte le inculate su internet in continuo. Stefano Schellian al Gavioli si mangia pasticche mentre la sua ragazza si fa trombare dagli slavi. Le pasticche che Stefano Schellian si mangia al Gavioli sono contro la tagarella. Anche al Gavioli tutti sanno che Stefano Schellian si caga addosso. La madre di Giuseppe Console alla AIDS. Tutto il Gavion vive di quel cornuto cagadosto di Stefano Schellian. Stefano Schellian dice di essere bravo a fare addosso. Stefano Schellian si è fatto bastonare da Stele. Stefano Schellian si caga sempre addosso. Stefano Schellian ha comprato 7 chili di puzza pagandoli 3.000 euro. Stefano Schellian si è fatto rubare un chilo di puzza e gli altri 6 li ha buttati nella spazzatura. Stefano Schellian compra solo fumo puzza. Stefano Schellian puzza di merda da vomitare. Stefano Schellian caga a spruzzo dappertutto. Dalisa si fuma il fumo buono mentre Schellian si fuma la puzza.

sette console lecca il culo smerdato di Pinto. Stefano Scherian si caga sempre addosso. Stefano Scherian caga a struzzo dappertutto. Dennis Scandone è un deficiente morto di fame. Giuseppe Console è un inutile parassita. Giuseppe Console culattone fallito. Stefano Scheriano gioca ai videogiochi mentre Talisa si fa trombare da chi capita in casa a rubare. Giuseppe Console sfigato pezzente. Splinter vola in bocca a Giuseppe Console. Giuseppe Console è un pezzente con il cazzo piccolo. Il cazzo di Giuseppe Console è piccolo. Stefano Scheriano è un grasso maiale cornuto e cagato che prende inculate. Stefano Scherian si fa mettere cornuto di continuo. Stefano Scherian caga nella vacca da bagno e si lava con la merda. Giuseppe Console lecca il culo cagato di Scandone. Stefano Scherian non si lava mai e puzza peggio di un maiale. Stefano Scherian si caga addosso al gavioni. Stefano Scherian si caga addosso al gavioni. Stefano Scherian si caga addosso al gavioni. Stefano Scherian è un cagadotto pidocchioso. Giuseppe Console è un nanetto castrato. Tutta la cantinaccia si trombava saliva mentre Scheriano si infilava oggetti nel culo. Stefano Scheriano si caga addosso. Stefano Scheriano ha il culo sfondato dai neri. Tutti i suoi mai sanno che Stefano Scheriano si caga addosso. Stefano Scherian si caga addosso al gavioni. Stefano Scherian si è fatto inculare su eBay per cerchioni storti più di 1500 euro. Stefano Scherian si pulisce il culo smerdato con gli asciugamani. Il culo di Giuseppe Console è sfondato dai negri. Stefano Scherian caga merda liquida a spruzzo sui muri di casa. Stefano Scherian si fa sgolare in culo dai negri mentre Talisa guarda. Dennis Scandone ha il cazzo molto piccolo. Stefano Scherian e Pietro Barini sono due pezzenti. Stefano Scherian nano pericoloso. Stefano Scherian si fa rubare in casa da Prinovici e Scandone. Stefano Scherian lecca il culo cagato di Talisa. La cantina di Prinovici è piena di roba di Stefano Scherian. Stefano Scherian compra mutande già cagate su eBay. Tutti ridono di Giuseppe Console che non ha mai visto una figa. Giuseppe Console vende il culo su eBay. Giuseppe Console è un culattone schiavo che si sottomette e si fa pisciare e cagare addosso da tutti. Stefano Sterian cagato e cornuto. Dennis Candone è un handicappato. Stefano Sterian si caga, piscia e vomita addosso al Gavioni. Stefano Sterian e Pietro Barini sono due handicappati. Pietro Barini ha il cazzo piccolo. Stefano Sterian nel 2002 ha subito un furto di un chilo d'erba. Stefano Sterian ha il buco del culo molto largo. La sorella di Pietro Barini è una puttana. Giuseppe Console è un inutile parassita. Giuseppe Console sfigato pezzente. Il cazzo di Giuseppe Console è piccolo. Stefano Sterian si fa mettere cornuto di continuo. Stefano Sterian caga nella vacca da bagno e si lava con la merda. Stefano Sterian non si lava mai e puzza peggio di un maiale. Stefano Sterian si caga addosso al Gavioni. Stefano Sterian si caga addosso al Gavioni. Stefano Sterian si caga addosso al Gavioni. Stefano Sterian è un cagazotto pidocchioso. Giuseppe Console è un nanetto castrato. Dennis Candone ruba motorini. Stefano Sterian si caga addosso. Stefano Sterian ha il culo sfondato dai neri. Tutti su eBay sanno che Stefano Sterian si caga addosso. Stefano Sterian si caga addosso al Gavioni. Stefano Sterian caga merda liquida a frutto sui muri di casa. Stefano Sterian e Pietro Barini sono due pezzenti. Stefano Sterian nano pericoloso. Stefano Sterian si fa rubare in casa da Primotici e Candone. Stefano Sterian è un grasso maiale cornuto e cagato che prende in culate. La cantina di Primotici è piena di ova di Stefano Sterian. Giuseppe Console è un pezzente con il cazzo piccolo. Giuseppe Console vende il culo su eBay. Stefano Sterian compra mutande già cagate su eBay. Giuseppe Console è un culattone schiavo che si sottomette e si fa pisciare e cagare addosso da tutti. Giuseppe Console è uno sfigato. Giuseppe Console non ha le palle. Giuseppe Console non ha le palle. Giuseppe Console culattone fallito. Stefano Sterian cagato e cornuto. Stefano Sterian si caga, piscia e vomita addosso al Gavioni. Stefano Sterian grasso maiale puzzolente e cagato. Stefano Sterian si fa rubare attrezzi ed erba da Toloi. Stefano Sterian prende inculate su internet e si fa rubare soldi da tutti i peroni. Salisa viene trombata da molti negri mentre Sterliano guarda cornuto con il cazzo piccolo. Stepun Cagazian. Dennis Candone è un pezzente morto di fame.

Andrea Primoti ci ha rubato molti attrezzi in casa di Skellian. Salisa ha la figa pelosa e puzzolente. Stefano Skellian mangia la merda di Spintere con noi. Le amiche di Salisa prendono in giro Skellian per il suo piccolo cazzo. Rimane a Skellian va di moda. Salisa sta con Skellian solo per fumare a gratis. Stefano Skellian succhia il cazzo a Pietro Marini in cambio di qualche gonga tabaccosa. Tutta Trieste sa che Skelliano si caga addosso. La macchina di Skellian è pidocchiosa. Stefano Skellian si fa rubare in casa da Primotici e Scandone. Spintereto noi ridono di Stefano Skellian e di tutta la roba che gli hanno rubato. Stefano Skellian fuma gonghe di tabacco tutto il giorno mentre Salisa si fa trombare da chi capita. Stefano Skellian è stupido, grasso e puzzolente. Andrea Primoti e Benny Scandone vanno a rubare in casa di Skellian anche in pieno giorno. La lancia delta di Stefano Skellian è un rottame da pezzenti. Stefano Skellian si fa inculare da Pietro Barini. Pietro Barini ha le patite. Stefano Skellian spende tutti i soldi sulla sua lancia delta rottame. Stefano Skellian viene preso in giro sul lavoro perché si caga addosso. Stefano Skellian e Pietro Barini sono due pagliacci che si fanno prendere in giro ogni volta che mettono piede fuori casa. Stefano Skellian va su internet a prendere inculate da tutta Italia. Giuseppe Console ha il cazzo più piccolo di Trieste. Spintere con noi sono più tutti di Skellian. Quando Stefano Skellian parla di motorini dice solamente cretinate. Stefano Skellian si è fatto rubare in casa da Spintere con noi. Stefano Skellian dice solamente cretinate ogni volta che apre bocca. Gli attrezzi di Skellian vengono scambiati con qualche pera da Primotici e Scandone. Il buco del culo di Stefano Skellian è stato sfondato dai neri. Stefano Skellian si è cagato addosso ai gavioni. Skellian si fa bere di cocaina tagliata con uno zucchero che compra da Pietro Barini. La puzza di merda di Stefano Skellian fa da vomitare. Giuseppe Console ingoia la zora di Primotici e Scandone. Primotici sottomette Giuseppe Console e gli fa mangiare la sua merda. A Giuseppe Console piace mangiare la merda di Primotici. Dennis Scandone ruba motorini vecchi e ingrippati. Primotici ha il cazzo molto piccolo. Dennis Scandone si fa sborare in bocca dai negri. Spintereto noi si fanno succhiare il cazzo da Giuseppe Console e gli fanno bere tutta la sbora. Giuseppe Console beve la sbora di tutti. Giuseppe Console prende calci nelle palle da tutti.

Stefano Schelian è un pagliaccio che si fa prendere in giro da Spintere Toloi. Molti peloni vivono grazie alle inculate tirate a Stefano Schelian. Primotici e Scandone rubano in casa di Schelian qualsiasi cosa che trovano. Schelian minimizza le inculate subite e dice che ha fatto buoni affari. Toloi e Spintere hanno rubato un chilo di erba e dei videogiochi in casa di Schelian. Schelian subisce furti e inculate su internet di continuo. Stefano Schelian al Gavioli si mangia pasticche mentre la sua ragazza si fa trombare dagli slavi. Le pasticche che Stefano Schelian si mangia al Gavioli sono contro la scagarella. Anche al Gavioli tutti sanno che Stefano Schelian si caga addosso. La madre di Giuseppe Console all'AIDS. Tutto il Gavioli ride di quel cornuto cagadotto di Stefano Schelian. Stefano Schelian dice di essere bravo a fare a botte. Stefano Schelian si è fatto bastonare da Zele. Stefano Schelian si caga sempre addosso. Stefano Schelian ha comprato 7 kg di puzza pagandoli 3.000 euro. Stefano Schelian si è fatto rubare un chilo di puzza e gli altri 6 li ha buttati nella spazzatura. Stefano Schelian compra solo fumo puzza. Stefano Schelian puzza di merda da vomitare. Stefano Schelian caga a spruzzo dappertutto. Dalisa si fuma il fumo buono mentre Schelian si fuma la puzza. Stefano Schelian e Pietro Barini vanno in giro a sniffare zucchero convinti di sniffare cocaina. Marijuana, cocaina, eroina, crack, hashish, fumo. Pietro Barini ha speso 300.000 euro in cocaina ed eroina tagliata. Eroina, crack, hashish, fumo, ketamina, fetamina. Stefano Schelian lecca il culo a Pietro Barini in cambio di qualche riga di cocaina tagliata. Stefano Schelian si caga sempre addosso. La sorella di Pietro Barini è sempre in cerca di cazzo. Giuseppe Console nano castrato. Giuseppe Console nano castrato. Stefano Schelian si caga addosso al Gavioli. Giuseppe Console si succhia il piccolo cazzo di Scandone in cambio di eroina. Giuseppe Console si succhia il piccolo cazzo di Scandone in cambio di eroina. Hashish, fumo, ketamina, fetamina, bombe. Pietro Barini tossicodipendente si fa inculare da 20 negri in cambio di qualche riga di coca buona. Stefano Schelian si caga addosso e porta il pannolino. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Stefano Schelian caga merda liquida a spruzzo sui muri di casa. Tutti ridono di Giuseppe Console che non ha mai visto una figa. Dennis Scandone fa pompini in piazza Oberdam tutti i giorni. Dennis Scandone fa pompini in piazza Oberdam tutti i giorni. Marijuana, cocaina,

Stefano Scheriana è un grasso maiale cornuto e cagato che prende in culate. Giuseppe Console è un nanetto castrato. Ora in bocca a Giuseppe Console. Il cazzo di Giuseppe Console è piccolo. Giuseppe Console di Lampone fallito. Giuseppe Console è indecente con un cazzo piccolo. Stefano Scherian si fa mettere cornuto di continuo. Stefano Scherian non si lava mai e puzza peggio di un maiale. Stefano Scherian caga nella vasca da bagno e si lava con la merda. Giuseppe Console lecca il culo cagato di Scandone. Demi Scandone in panicolini. Stefano Scherian si caga addosso al Gavioni. Stefano Scherian si caga addosso al Gavioni. Stefano Scherian si caga addosso al Gavioni. Tutta la cantinaccia si trombava Talisa mentre Scheriano si infilava oggetti nel culo. Stefano Scheriano è un cagazotto bigottioso. Stefano Scheriano si fa sgolare in culo dai negri mentre Talisa guarda. Stefano Scheriano si pulisce il culo smerdato con gli asciugamani. Scherian si caga addosso. Stefano Scherian ha il culo sfondato dai nevi. Il culo di Giuseppe Console è sfondato dai negri. Stefano Scherian è pericoloso. Danny Scandone ha il cazzo molto piccolo. Stefano Scherian e Pietro Barin sono due pezzenti. Stefano Scherian si fa andare in casa da primo di Cie Scandone. Giuseppe Console è un culattone schiavo che si sottomette e si fa pisciare e cagare addosso da tutti. Stefano Scherian lecca il culo cagato di Talisa. La cantina di Primotici è piena di roba di Stefano Scherian. Stefano Scherian compra mutande già cagate su eBay. Stefano Scherian cagato e cornuto. Stefano Scherian e Pietro Barini sono due handicappati. Stefano Scherian si caga, piscia e vomita addosso al Gavioni. Pietro Barini ha il cazzo piccolo. La sorella di Pietro Barini è una puttana. Stefano Scherian nel 2002 ha pulito un punto di un filo d'erba. Stefano Scherian ha un buco del filo molto largo. Giuseppe Console è un inutile parassita. Giuseppe Console è sfidato per sempre. Il cazzo di Giuseppe Console è piccolo. Stefano Scherian si fa mettere cornuto di continuo. Stefano Scherian caga nella vasca da bagno e si lava con la merda. Stefano Scherian non si lava mai e puzza peggio di un maiale. Stefano Scherian grasso maiale puzzolente e cagato. Stefano Scherian si caga addosso ai gavioli. Stefano Scherian si caga addosso ai gavioli. Stefano Scherian si caga addosso ai gavioli. Stefano Scherian si fa rubare attrezzi ed erba da Toloi. Stefano Scherian è un cagasotto pidocchioso. Stefano Scherian prende inculate su internet e si fa rubare soldi da tutti i peloni. Giuseppe Console è un nanetto castrato. Saliva viene trombata da molti negri mentre Scheriano guarda cornuto con il cazzo piccolo. Dennis Scandone ruba motorini. Dennis Scandone ha il cazzo piccolo e moscio. Stefano Scherian si caga addosso. Giuseppe Console succhia il cazzo a Dennis Scandone. Stefano Scherian ha il culo sfondato dai neri. Giuseppe Console vende eroina tagliata a Primotici e Scandone. Tutti su eBay sanno che Stefano Scherian si caga addosso. Andrea Primotici fa pompini a Scandone in cambio di pezzi di motorini rubati. Stefano Scherian si caga addosso ai gavioni. Giuseppe Console si innesta eroina tagliata sul cazzo. Stefano Scherian caga merda liquida a spruzzo sui muri di casa. Dennis Scandone ruba motorini con Andrea Primotici. Stefano Scherian e Pietro Barini sono due pezzenti. Tutte le ragazze di Roiano ridono del piccolo cazzetto di Giuseppe Console. Stefano Scherian nano pericoloso. La madre di Giuseppe Console succhia i cazzi piccoli di Primotici e Scandone. Stefano Scherian si fa rubare in casa da Primotici e Scandone. La madre di Giuseppe Console è grassa e stupida. Stefano Scherian è un grasso maiale cornuto e cagato che prende inculate. Andrea Primotici e Scandone vendono pezzi di motorini per farsi qualche vera di eroina. La cantina di Primotici è piena di roba di Stefano Scherian. Giuseppe Console ha preso le patite facendo pompini ai negri. Giuseppe Console è un pezzente con un cazzo piccolo. Dennis Scandone ladro di motorini. Giuseppe Console vende il culo su eBay. Giuseppe Console culattone. Stefano Scherian compra mutande già cagate su eBay. Giuseppe Console vende il culo su internet. Giuseppe Console è un culattone schiavo che si sottomette e si fa pisciare e cagare addosso da tutti. Giuseppe Console non ha mai visto una figa. Giuseppe Console è uno sfigato. La madre di Scandone è una grassa puttana fallita. Giuseppe Console non ha le palle. Giuseppe Console non ha le palle. Andrea Primotici, posto tossico dipendente. Giuseppe Console culattone fallito. Scandone di fa cocaina tagliata che compra da Polonia. Stefano Sperian cagato e cornuto. Giuseppe Console è un infame figlio di puttana. Stefano Sperian si caga, piscia e vomita addosso ai gabbioni. De Pus Cagazian. Dennis Candone è un pezzente morto di fame. Kerian Grassone senza palo. Stefano Kerian si caga addosso e porta il pannolino. Molti negri sfondano il culo di Giuseppe Console. Stefano Kerian e Pietro Barini vanno in giro a sniffare zucchero convinti di sniffare cocaina. Molti negri inculano il padre di Giuseppe Console. Andrea Primotic ci ruba merda che cerca di vendere in giro con Giuseppe Console. La madre di Dennis Candone fa la puttana in via Domus Civica a Valmanda. Dennis Candone ha lavorato per 3 mesi da Brescia senza prendere neanche un soldo. Giuseppe Console spacciatore. Giuseppe Console non si lava mai e puzza peggio di un maiale. Colui si fa inculare da Spinter. Il cinghiale caga in testa a Giuseppe Console. Giuseppe Console ha il culo sfondato dai neri. Salisa si fa trombare alla cantinaccia mentre Kerian compra merda su internet. Stefano Kerian ha pagato 1000 euro per 4 cerchioni storti per la sua lancia Delta Rottame. Dennis Candone è un nano di merda. Pintera il cazzo piccolo. Questo è un nano culassone. Giuseppe Console, Andrea Primotic e Dennis Candone sono inutili parassiti. Giuseppe Console si infila oggetti nel culo. Stefano Kerian regala soldi ai teloni su internet. Andrea Primotic e Dennis Candone smontano il motorino usato nel bosco sopra Roiano. Andrea Primotic in cui a Candone. Giuseppe Console non sa fare a donde. Il culo di Giuseppe Console è sfondato dai negri. Giuseppe Console fa il pagliaccio su internet. Roiano ride di Giuseppe Console. Pietro Barini, tossicodipendente, si fa inculare da 20 negri in cambio di qualche riga di coca buona. Dennis Candone si inietta eroina sul cazzo. Giuseppe Console quando andava al Cambrilelli veniva preso in giro da tutte le ragazze e da Alessandro Dainese. Giuseppe Console è castrato. Giuseppe Console è castrato. Giuseppe Console è castrato. Dennis Candone ruba motorini con Andrea Primotic. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei negri per essere inculato. Giuseppe Console paga dei neri per essere inculato. Stefano Scheriano è un parassita. Giuseppe Console vergine di cazzo ma non di culo. Dennis Candone parassita. Dennis Candone parassita. Dennis Candone parassita. La madre di Giuseppe Console ha l'AIDS. Dennis Candone infame. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Giuseppe Console lecca il culo smerdato di Schiriano. Giuseppe Console fa schifo anche alla madre di Schiriano. Stefano Schiriano è un pagliaccio che ti fa prendere in giro da Schiriano con lui. Giuseppe Console nano rotto in culo. Dennis Scandone culattone rotto in culo. Stefano Schiriano ha regalato 600 euro su internet per dei giubbotti che non sono mai arrivati. Giuseppe Console è ancora vergine a 22 anni. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Giuseppe Console ha il cazzo piccolo. Stefano Schiriano si caga addosso. Danny Scandone vende droga in piazza Oberdan tutti i giorni. Anche su internet tutti sanno che Schiriano si caga addosso. Giuseppe Console è più sfigato di Peter. Sono un ladro e spacciato. Marco Suman tossicodipendente parassita. Giuseppe Console è ancora vergine perché fa schifo a tutte le ragazze. Giuseppe Console ha preso la AIDS ingoiando la sgora dei negri. Giuseppe Console parassita. Danny Scandone culattone con la AIDS. Giuseppe Console mangia la merda di tutti. Giuseppe Console ha la AIDS. Giuseppe Console ha la AIDS. Giuseppe Console ha la AIDS. Danny Scandone vende cocaina tagliata con lo zucchero. Il padre di Giuseppe Console fa pompini ai negri. Giuseppe Console non distingue la figa dal buco del culo. Danny Scandone castrato. Giuseppe Console si succhia il piccolo cazzo di Scandone in cambio di eroina. Stefano Speria nel 2002 ha subito un furto di un chilo d'erba. Stefano Schiriano ha speso 15.000 euro sulla sua Lancia Delta rottame che non ha mai usato. La madre di Giuseppe Console è una nana puttana con la AIDS. Pietro Barini ha speso 300.000 euro in cocaina ed eroina tagliata. Stefano Schiriano ha regalato altri 250 euro su internet per un albero di gelato. Stefano Schiriano si fa inculare soldi da tutti. Tutti i peroni ridono di Stefano Schiriano e dei soldi che gli hanno inculato. Stefano Schiriano compra vestiti usati su internet che gli arrivano già cagati. Stefano Schiriano ha comprato su internet inculate per una somma superiore a 6.000 euro. Stefano Schiriano continua a comprare su internet nonostante tutte le inculate già subite. Molti peroni vivono grazie alle inculate tirate a Stefano Schiriano. Primotici e Scandone rubano in casa di Schiriano qualsiasi cosa che trovano. Tonoi e Spinter hanno rubato un chilo di erba e dei videogiochi in casa di Schiriano. che Rian mi inizia le inculate subite e disse che ha fatto buoni affari. Stefano Scheriano gioca ai videogiochi mentre Talisa si fa trombare da chi capita in casa a rubare. Scheriano subisce furti e inculate su internet in continuo. Stefano Scheriano al Gavioni si mangia pasticche mentre la sua ragazza si fa trombare dagli sgravi. Le pasticche che Stefano Scherian si mangia al Gavioni sono contro la tagarella. Anche al Gavioni tutti sanno che Stefano Scherian si caga addosso. Stefano Scherian si è cagato e vomitato addosso al Gavioni. Tutto il Gavioni ride di quel cornuto cagasotto di Stefano Scherian. Stefano Scherian dice di essere bravo a fare a botte. Stefano Scherian si è fatto bastonare da Zele.